notte è calda, anche a zero gradi. Fuori balla, che la notte balla, nel silenzio salta, corri fra i colori e i rumori. Non fermarti, yeah, non fermarti. È finito il lavoro e ieri ho fatto le quattro, ma se oggi non esco è pacco. Questo dice il mio amico dello studio di fianco. Sì, è vero, sono stanco, ma ho voglia di uscire, non pensavo ad altro. C'è l'aperitivo, inaugura la mostra e c'è tutto il giro, i ragazzi che non becco da cent'anni. E lo sai, ho una borsa con dei dischi che fan danni. E lo sai, dopo tutti al localetto per il party, voglio vodka lemon e poi ballo con gli altri, con la mia bella e le sue amiche finché si fa tardi. Fumo l'ultima e un'altra noi figli bastardi di una city che ci ha tirato da tutte le parti. Che guardi, noi usciamo a fare quattro salti. Ehi, ehi, che guardi, ehi, ehi, che guardi. Noi usciamo a fare quattro salti. Balla, che la notte è calda, anche a zero gradi. Fuori, balla, che la notte balla, nel silenzio salta, corri fra i colori e i rumori. Non fermarti, non fermarti. La musica che ama sfumature naturali è il groove contemporaneo, coi viaggi temporali e spaziali. Serato CD o vinili, cambia i tempi o ridisegnate adeguato gli stili. Il mio artigianato è oro per chi sa apprezzarlo, e così per tutti i raga dei quali ti parlo. Senza tempo da perdere, sfogo creativo, con talento da vendere, in vita ci arrivo. Nella pista o nello squat, con il reggae e l'hip hop, alza birra e Cuba Libre, gli spliffo e il succo. Si balla e si festeggia nel rispetto perfetto, dalla disco al disco bar o nel parchetto. Balla, che la notte è calda, anche a zero gradi. Fuori, balla, che la notte balla, nel silenzio salta, corri fra i colori e i rumori. Non fermarti, non fermarti. Balla, che la notte è calda, anche a zero gradi. Fuori, balla, che la notte balla, nel silenzio salta, corri fra i colori e i rumori. Non fermarti, non fermarti.